Nikpe. La giornata, iniziata male, non doveva finire meglio. Ci eravamo fermate in una piccola oasi per passarvi la notte. Nelle vicinanze di un caravanserraglio in rovina splendeva un campo di grano come un'incastonatura nel deserto grigio. Avevamo da poco piantato la tenda quando due gendarmi in uniforme blu squillante ci esortarono a spostarla nel giardinetto davanti al posto di polizia. Accettando l'invito di malavoglia, smontammo la tenda e trasportammo tutto alla rinfusa nel luogo indicato. Poi, senza indugiare, preparammo la cena mentre quelle brave persone si adoperavano in mille modi per esserci utili. Il fornellino da campo fu rifornito di benzina, ma diedi troppo presto il permesso di accendere la fiamma a uno dei gendarmi che teneva pronto un fiammifero ormai da 5 minuti. Lingue di fuoco si sprigionarono dal suolo, dai miei piedi e poi dalla mia mano dopo che avevo gettato lontano calze e scarpe. Avvolta da una fiamma bluastra, la mano ardeva come un omelette al rum. Il fuoco si propagò alla manica della giacca e già mi vedevo prossima alla morte, trasformata in torcia vivente. Un'esperienza rara. Spiavo con interesse tanto acuto i pensieri che nascevano in me da non riuscire a prestare attenzione a null'altro. In che momento la paura mi avrebbe invasa totalmente? Non è forse in simili frangenti che ci si precipita sulla prima coperta per buttarsela addosso? Fu infatti ciò che feci, avvolgendomi nella tenda. Scongiurato il pericolo, mi toccò consolare il povero uomo che gemeva disperato. «Oh, Allah, Allah, sono io il colpevole!» Si sbagliava. L'errore era stato unicamente mio. Alla luce fioca del crepuscolo, riempiendo troppo il fornello, avevo sparso benzina a terra e nondimeno imprecavo in cuor mio contro l'eccesso di zelo dei nostri ospiti. Tutto sommato il danno non era poi così grave. Il dorso della mia mano sembrava un guanto pieno d'acqua sul punto di scoppiare. Soltanto in una parte appariva la carne viva, là dove avevo usato il tradizionale accorgimento della tenda coperta. Medicata la mano con un unguento grasso, fu preparata la minestra e cenammo. Subito dopo ci coricammo al riparo di zanzariere prestateci dalla polizia. Ancora una volta avevo la prova di saper osservare le mie reazioni con distacco e di quanto la curiosità prevalesse in me su ogni altro impulso. Nei momenti più importanti della vita, nel pericolo come nell'amore, continuo a essere la spettatrice di me stessa. Non sarei mai stata capace di soffrire con l'intensità di Cristina. Non mi è possibile essere del tutto coinvolta dal teatro della vita. Forse Cristina, inconsciamente affascinata da un ruolo di donna tormentata, aveva deciso di restargli fedele per tutta la vita. In tal caso mi rendo conto di quanto fossero maldestri i miei consigli e vane le mie conclusioni semplicistiche. Dormii profondamente, grazie senza dubbio a una formidabile sorsata di cognac, ma Cristina, che aveva sentito il bisogno di finire l'intera fiaschetta, non trovava riposo, immaginando che sopportassi eroicamente in silenzio una tortura. Il dolore, violento e diretto, mi colpì soltanto 2 giorni dopo. Il dottore incise la pelle bruciata e mi mostrò come aspergere ogni 10 minuti la piaga rossastra con acido tannico. Poi, prudentemente si allontanò, adducendo la scusa di dover assistere alla predica della domenica mattina. Incominciai allora ad armeggiare con quell'infernale vaporizzatore, mentre lacrime e sudore inondavano il mio corpo. Simile cura era il miglior modo per far sì che la piaga crostificasse, altrimenti mi sarebbe stato impossibile continuare il viaggio. Per 2 giorni la mano aveva spurgato tanto siero da costringermi a sporgerla fuori dalla macchina, così da lasciarlo cadere sulla strada. Sentendo la mia compagna parlare della notte passata insonne a immaginare la mia sofferenza, capii come per un'illuminazione che il cielo e l'inferno sono in ogni momento la conseguenza di pensieri suggeriti dalla nostra mancanza di conoscenza. In che pietose creature ci trasformiamo se lasciamo alle proiezioni del nostro intelletto la libertà di comporre una valle di lacrime. Mi era facile provarlo a Cristina. L'armonia di una costruzione, la tristezza di una sinfonia non erano probabilmente percepibili da una mente incolta, poiché bellezza, malinconia, gioia non sono parti integranti di un oggetto, di un avvenimento, non esistono che dentro di noi. Se dunque tali sentimenti sono insiti nella nostra interiorità in maniera costante e non dipendono che incidentalmente dalle circostanze esterne, è compito di ogni uomo o donna far sorgere dal suo io profondo l'allegrezza pura, non condizionata, oppure il distacco invece del dolore. Così ciascuno può arrivare a modellare il proprio mondo a suo modo. Tuttavia non ero pronta a esporre a Cristina questa mia convinzione. Dovevo capire prima perché ancora e sempre ella scegliesse la via complicata, la via crudele dell'inferno. Era forse possibile che la preferisse a modi più facili di vita? Pensava che fosse il cammino più diretto per consumare e quindi superare i limiti della propria individualità? Avendo vissuto con Thomas Mann e la sua famiglia, Cristina era forse d'accordo con l'eroe della montagna incantata che dice: «La vita può compiersi lungo due cammini, uno ordinario, semplice e diretto, l'altro è faticoso, conduce al di là della morte ed è la via geniale». La sua sofferenza era a tal punto miracolosa da condurla oltre l'intelletto, pur essendo da questo stesso prodotta. Come me, neppure lei probabilmente lo sapeva, soltanto di una cosa ero certa. Cristina sbagliava nell'identificarsi con un essere ossessionato dalla paura. D'altronde, se il dolore l'avesse guidata alle soglie di un mondo superiore a me sconosciuto, sarebbe stata disperata fino a tal punto. Ritengo che anche lei non si rendesse chiaramente conto di quale via stesse seguendo. Il mio primo incontro con lei, e ne ricordo alla perfezione l'impressione ricevuta, avvenne in cima alle scale usurate dello Schwarzenbauer di Zurigo, un vecchio e silenzioso albergo all'antica dove un mio zio ingegnere aveva un piede a terra. Era una luminosa giornata d'estate. Senza cappello, molto elegante nel suo tailleur grigio, così sottile da sembrare eterea, silenziosa, stava seduta con il capo reclinato. Ma all'improvviso accennò un sorriso fiducioso. Pensai a tutta prima che ascoltasse una musica interiore e poi sentii che cercava, al di là delle parole pronunciate, nella speranza di cogliervi come la risonanza di un mondo dotato di significato superiore di cui aspettava di udire la nota fondamentale. Oppure, volendo usare un'altra metafora, Cristina ci guardava come fossimo prismi, tesa a captare un raggio di luce originale, non differenziata. Certo, credeva nel dolore, lo venerava come principio di ogni grandezza, e quel giorno mi chiesi, per la prima volta, se voleva veramente superare la sua disperazione, dato che una parte di lei sembrava trarne come un godimento. In tal caso avrebbe saputo concludere positivamente il suo cerchio, trasformando l'inferno in paradiso. Quando supplicava che la si aiutasse a uscire dal suo incubo di drogata, non era forse soltanto l'altra parte di sé che tendeva a vivere più normalmente? Così divisa, non le era dunque possibile modificarsi in modo permanente. Tuttavia le crisi, tanto ricorrenti nella sua vita, la estenuavano. Cristina era un violino, dal suono misurato, le cui corde erano le fibre del suo cuore. Mentre intonava quella personale sinfonia, ogni tocco d'archetto la consumava. Incapace di andare oltre il proprio tormento, non era condannata al suicidio al pari dell'Europa attuale, vittima di un concatenarsi di tragedie. Sprofondare con tanta consapevolezza da un inferno all'altro era il solo mezzo da lei conosciuto perché amore e cervello vivessero all'unisono. A tal fine si sottometteva a prove che nessun altro avrebbe potuto sopportare. E nello stesso tempo la giovane donna era straziata tra il desiderio di quella vita intensa che tanto dilatava la sua coscienza e la paura di non reggere un'esistenza di tal sorta. Schiava dei suoi bisogni, accelerava con impazienza gli sviluppi della propria vita, nei vuoti tra un impeto veemente e l'altro, si sentiva così inerte da credersi morta. «Godete realmente della vita?» mi chiedeva di continuo, oppure «come fate a vivere?» In verità avrebbe voluto sapere come sopportavo quel vuoto per lei così esasperante e da quali fonti attingevo la pazienza del vivere quotidiano. «Siete sincera quando affermate che la vita è bella», soggiungeva. «Le nascondevo che i momenti di pienezza totale, quando la vita appare come potrebbe essere, sono troppo rari. Contrariamente a lei, tuttavia, consideravo la gioia e non l'abisso di pena, il terreno propizio a tale compiutezza. Una volta ancora mi affannavo a distrarla dai suoi pensieri, pur giudicando puerile ogni mio sforzo. Ero infatti sempre più consapevole di quanto la nostra natura intima condizioni in ogni momento i fatti esterni. Le partecipavo così l'emozione di un fiore che urlava, il suo rosso contro il blu del cielo, la gioia di ogni passo liberamente scelto. Avevamo incontrato due giovani e biondi vagabondi, rossi fuggiti dal Turkestan sovietico già da 4 anni. Avevano ancora 2 anni da far passare, tra virgolette, prima di poter diventare cittadini iraniani, cosa che avrebbe permesso loro di non vivere più da girovaghi. Per il momento lavoravano saltuariamente in qualche fattoria o garage, finché il padrone non scopriva che erano sprovvisti di passaporto. Uno dei due, un ragazzo avvenente, veniva da Kuban, l'altro da Ashgabat, dove era tipografo. Erano scappati perché il pane era troppo amaro e i giorni di paga troppo rari. Ne vivevano molti altri nei pressi di Shahrud, in baracche costruite da loro stessi, ma spesso morivano di malaria o di dissenteria e le donne non resistevano ai rigori dell'inverno. Già da lungo tempo avevano inviato i loro nomi a un'organizzazione umanitaria di Teheran, ma senza risultato. Quei giovani avevano ben poche speranze e non di meno continuavano a lottare. Vivevano senza libri, senza notizie del mondo. Il tipografo aveva iniziato a tenere un diario che era diventato la sua ancora di salvezza, ma la polizia, diffidando di tutto quanto è russo, glielo aveva requisito. Ultimamente 2 dei loro amici si erano impiccati. Quando ci separammo, il tipografo disse: «Siete dirette verso amici che vi aspettano. Oh, non sapete che felicità questo rappresenti». Parole commoventi di cui mi servii per provare a Cristina che, pur fortunate, sapevamo apprezzare troppo poco i nostri privilegi. Anche se diverse l'una dall'altra, avevamo tuttavia alcuni punti in comune. Ambedue cercavamo di guadagnarci la vita, io perché dovevo e lei per poter essere libera di rifiutare il proprio appannaggio. Ambedue vivevamo per la maggior parte del tempo sole, avendo valutato la modestia della qualità d'amore che eravamo in grado di offrire in rapporto al generoso impeto del cuore che, come ben sapevamo, si addiceva a tale sentimento, a quel trasporto che non eravamo ancora riusciti a provare. Una volta mi aveva chiesto con aria pensosa: «Kini, che cosa non funziona in me? Come è mai possibile che con le persone a me più care, compresa mia madre, che vorrei raggiungere anche a costo della vita, non sia mai riuscita ad avere relazioni equilibrate sul piano pratico? Da principio sono tutti attratti da me, ma presto incuto loro paura, il mio amore sembra torturarli, e così le mie esigenze sono troppo violente. Beh, siete forse come me innamorata della vostra idea dell'amore più che di una persona. Mi dicono che sconvolgo la loro vita», proseguì Cristina, «e nel volgere di poco tempo mi affidano a estranei o a qualche medico, e così, rifiutando di sottomettermi alle loro stupide regole, finisco per trovarmi prigioniera di una camicia di forza. A pensare che ogni dottore ha sempre iniziato a curarmi rassicurandomi sulla mia normalità». «Sì, ho visto come estenuate gli esseri chiamate. Voi pretendete un amore che è al di là delle possibilità umane». Eravamo tutte e due viaggiatrici. Cristina, illudendosi di dimenticare a ogni partenza la sua ultima crisi emotiva, senza capire che già ne desiderava un'altra. Io, cercando sempre e sempre lontano il segreto di un'esistenza armoniosa. Nell'attesa di intraprendere un nuovo viaggio, giocavo con il rischio, sugli sci, su una barca a vela, non sapendo privarmi del gusto aspro e sano che questo mi procurava. Entrambe avevamo una natura attiva, ma mentre per me si trattava di una continua sfida al fine di provarmi di non essere una nullità, la mia compagna per contro si sentiva forte e intoccabile a tal punto da non concepire che un'esperienza, anche eccessiva, potesse mai scalfire la propria innocenza o salute. A Berlino si era detta un giorno: «Come una droga provata per curiosità potrebbe danneggiare me, Cristina?» Sul piano intellettuale eravamo invece assai dissimili. Cristina apparteneva alla genia dei poeti, i quali si muovono tra idee nate e nutrite dalla loro immaginazione e i suoi stati d'animo trasformavano il mondo, mentre io Credevo ancora nella realtà dei fatti, così come sono persuasa di essere condizionata nella mia vita soggettiva dal mondo esterno. Per tale ragione la mia sensibilità era meno percettiva della sua. E anche ora, quando provo a spiegare la natura di Cristina, la tradisco portandola al mio livello. Tantomeno ero in grado di capirne le contraddizioni ed evitavo perciò di porle domande troppo personali, credendo mio unico dovere distrarla da se stessa. Soltanto un anno dopo, quando ricevetti una sua lettera da New York che mi sconvolse, mi resi conto che avrebbe potuto inaspettatamente lasciare questa terra. Ci univa una medesima devozione verso qualcosa che non potevamo nominare. Tutte e due avevamo scelto di rimanere libere per adempiere a un obbligo supremo verso noi stesse e superare quella prova necessaria la cui natura ci era ancora sconosciuta. Era egoismo? Forse, ma cominciavo a intuire che potevamo offrire la nostra totale sottomissione soltanto a un'entità assoluta, dinanzi alla quale non avremmo contato di più. Soltanie. Mentre viaggiavamo alla volta di Katzwin, ci apparve all'improvviso in un lampo di luce Soltanie. I mattoni smaltati del grande mausoleo risplendevano al sole in mille riflessi. Lasciata la strada, sobbalzando tra canali di irrigazione ormai in secca, ci avvicinavamo all'antica capitale degli Ilkhan, abbandonata da quando un terremoto ne aveva prosciugato le riserve idriche. Un albero o una roccia, isolati nel vuoto del deserto, partecipano della grandezza che li circonda, concentrando su se stessi le radiazioni di quell'immensità. È il fascino del Tibet. È proprio in questo nulla che attorna la sua semplice massa. Un uguale incanto si opera, e ancora più intenso allorquando, in mezzo a una terra piatta e monotona, sorge, isolata, un'antica tomba, lineare e immensa, il sepolcro di Olgiacio, gigantesco uovo posato su una massiccia costruzione esagonale sovrastante tutta la pianura della Media. Nell'approssimarsi al monumento, la cupola in turchese smaltato scompare, non se ne vedono che le mura, severe, traforate in alto da logge a triplice arcata. L'edificio è alleggerito da 6 torrette rotonde poste rispettivamente sopra i 6 spigoli dell'edificio. Esso fu eretto nel 1316 per ordine del sultano Olgiacio della dinastia mongola degli Ilkhan. Pannelli a motivi geometrici ricoperti di smalto turchese brillano come tessuti di seta tesi sulle mura dai mattoni sfaldati di un bel rosa salmone. Il turchese degli antichi monumenti turchi o persiani è incomparabile. Sullo sfondo del cielo assume sfumature verdi e tra la vegetazione di Samarcanda appare invece blu. Rispetto a ogni altra pietra di turchese, il suo colore è come l'azzurro delle piume del martin pescatore al confronto di quello del cielo. Sarei tentata di chiamarlo blu d'Asia centrale, in ricordo di un lago glaciale del Tian Shan che offriva simile radiosa saturazione azzurro cielo a riflessi verdi. A Soltanie non esistono arabeschi né segni delicati come nei pannelli fioriti della moschea blu di Tabriz. Tuttavia, sopra un portale, uno stucco dagli eleganti e raffinati motivi ricorda certi pizzi all'uncinetto. Entrate all'interno di questo edificio ormai abbandonato, la cui forma architettonica di assoluta linearità assurge a valore di simbolo, rimanemmo immobili, come paralizzate dal rispetto per un qualcosa di grande. Lentamente il mio animo si innalzò verso la pace e la pienezza racchiuse in quella cupola che ci sovrastava da circa 45 metri. Era ormai soltanto un mondo di forme, poiché pitture e iscrizioni non erano che ombre appena visibili. La dolce luce che filtrava attraverso gli alti vani aperti era quasi la promessa di una ricca e vasta contemplazione, se mai fossimo pervenute a elevarci fin lassù. Edificato per proteggere i resti mortali di Ali, genero del profeta, tale monumento era diventato la tomba del sultano Olgiacio Kodabanda, che regnò dal 1303 al 1316. Oggi non vi è più traccia del sepolcro vero e proprio, ma ancora nel 1637 un membro dell'ambasciata del duca d'Holstein alla corte dei Safavidi poté ammirare le reliquie al riparo di una cancellata d'acciaio indiano levigato e damaschinato, le cui sbarre avevano le dimensioni di un braccio d'uomo. In lingua mongola, Olgiaciu significa fortunato. Il sultano fu così chiamato in ricordo della propria nascita, avvenuta mentre la madre attraversava il deserto di Merv. Malgrado il rischio di morire di sete, la carovana fu costretta a fermarsi per qualche giorno, ma un acquazzone del tutto inatteso venne, per buona ventura, a quietare l'ansietà dei viaggiatori. Dopo essere stato convertito all'Islam dalla moglie, Olgiaciu mutò in Kodabanda, servitore di Dio. Il nome di Nicola, impostogli quando era bambino dalla madre Uruk Khatun, che l'aveva fatto battezzare nella chiesa cristiana. Olgiaciu succedette al fratello Ghazan Khan, morto nel 1304. Il marito della principessa mongola Khogatun, che i Trepolo avevano accompagnato, e fu il primo sovrano mongolo a non tenere nascosto il luogo della propria tomba. Fino ad allora, infatti, i capi mongoli, seguendo l'usanza del loro popolo, avevano celato dove sarebbero stati sepolti. Olgiaciu, quinto discendente di Gengis Khan, apprese la morte del fratello Ghazan all'età di 24 anni, ma tenne segreta la notizia finché non riuscì a uccidere un altro pretendente al trono. Il sultano mantenne rapporti con il mondo. Riceveva ambasciate dalla Cina, era in corrispondenza con Filippo il Bello, Edoardo II e con il Papa Clemente V. I suoi ambasciatori avevano dovuto tacere il fatto che era diventato musulmano, poiché i suoi regali corrispondenti contavano su di lui per estirpare l'abominevole setta di Maometto. Egli si serviva ancora dei sigilli di Stato dati dal Gran Khan e parlava di sé chiamandosi Daruga, governatore. Olgiaciu morì a Soltanieh per un attacco di gotta. Aveva 35 anni. Virtuoso, liberale, difficilmente influenzabile dalle calunnie, ma al contempo, come tutti i principi mongoli, amante delle bevande alcoliche e occupato soprattutto a soddisfare i propri piaceri. Le sue esequie furono celebrate con gran pompa e tuttavia, a causa di intrighi fra i suoi ministri, corsero voci che fosse stato avvelenato. Nel 1335, 20 anni dopo la sua morte, nasceva Tamerlano lo Zoppo, sultano di Samarcanda, che doveva mettere fine alla dinastia degli Il-Khan. Nel XVII secolo Tavernier scriveva che Soltanieh era di nuovo una grande città, dove molte chiese cristiane erano state trasformate in moschee, e volendo credere agli armeni, ne esistevano a Soltanieh circa 800 tra chiese e cappelle. Nel lasciare la nobile tomba di Soltanieri, pensai a un detto persiano: la grande arte ci rende forti, giovani e contenti. In piedi, sostavo silenziosa a uno dei tanti incroci delle strade asiatiche dove si ergeva il simbolo di un'epoca in cui i principi mongoli venivano battezzati cristiani per convertirsi poi all'Islam. Forza virile, religione nuova, severità si fondevano in quell'unico monumento.